per la situazione che c'è qui all'Aquila, per la speculazione che già si è visto, che comunque già si sta infiltrata la mafia essenzialmente a questo, in combutta poi con amministrazioni comunali e con personaggi che stanno molto, sono molto vaghi, diciamo, ambigui più che altro. Poi si è visto com'è crollato, insomma, l'ospedale, così, 30 secondi, senza. Insomma, un ospedale dovrebbe essere costruito a norma. Però ecco, i grandi ci provano a prendere degli impegni, no? Per alcuni Parole, importanti. sì. Tante parole e pochi fatti alla fine. Perché, insomma, come questo è un caso su un milione, cioè è successo qua all'Aquila perché è zona sismica. Cioè perché era più probabile che succedesse qua, ma cioè, quasi tutta l'Italia è costruita così, con la sabbia del mezzogiorno, con infiltrazioni mafiose che hanno costruito mezza Italia alla fine. Quindi è proprio per cercare di dare una risposta a questa politica, insomma, a questa politica del volemose bene, fame cose così, tanto.